giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La crisi della Ublox di Sgonico è destinata a peggiorare ulteriormente il declino in corso nel settore industriale di Trieste, analisi e proposte della CGIL. Il delitto di Capodanno è ripreso in corte d'assise a Udine il processo per la morte di Ezechiele Mendoza e col nazionale Anderson Vasquez di Pres rischia l'ergastolo. Riaperto alle 9 di questa mattina il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro. Una settimana fa era stato chiuso per i gravi danni causati da un tir. Trieste rimane una delle città dove il costo della vita lo scorso anno è aumentato di più. Oggi i dati sull'inflazione nel capoluogo regionale è a Udine. Open Day della sede goriziana dell'Università di Trieste. L'Ateneo presenta 4 corsi dall'architettura alle scienze diplomatiche. La figlia di Paolo Borsellino è a Prata di Pordenone per far conoscere ai ragazzi delle scuole il messaggio del magistrato ucciso da Cosa Nostra. Il progetto di un parco fotovoltaico a San Leonardo, il comune ribadisce il no di maggioranza e opposizione alla conferenza dei servizi convocata dalla regione. Basket a 2 il giorno dopo il derby tra Udine e Cividale, vinto dalla seconda dopo una partita bella e combattuta, i commenti degli allenatori. Pallavolo, Talmasons perde alla Tisana per 3-1 contro Scandicci, seconda squadra in classifica. Migliore in campo la centrale brasiliana Carol, per il Talmasons ottima prova dell'ala Pamio. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. La crisi della Ublox di Sgonico, attiva nel settore della telefonia cellulare, l'ennesimo duro colpo al mondo dell'industria triestina. Sentiamo l'analisi della CGIL sulla situazione complessiva. Debacle industriale, quadro allarmante. I sindacati CGIL e CISL e UIL usano questi termini per descrivere la nuova crisi industriale che colpisce la città di Trieste. Dopo Varsila, Tirso, Flex, è la volta della Ublox di Sgonico, pronta a lasciare a casa 200 lavoratori nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. Antonio Rodà, segretario UILM di Trieste e Gorizia, le chiediamo: è davvero una situazione drammatica, soprattutto nella città di Trieste, in generale in regione, ma qui è qualcosa di più grave? Perché più grave? È molto grave perché noi vediamo su Trieste un progressivo smantellamento di tutto quello che era tessuto industriale. Stiamo gestendo ogni anno di fatto una crisi nuova, ma grave anche nei numeri dei lavoratori coinvolti. In particolar modo, insomma, anche questa notizia di Ublox con i numeri che rischia di coinvolgere si aggiunge ad un quadro che è molto preoccupante. C'è anche la questione di Flex, oggi in piedi con un tavolo ministeriale sul quale, insomma, pende una spada di Damocle pesante su centinaia di lavoratori. Quindi il quadro non fa altro che complicarsi, per non tralasciare le questioni come ad esempio anche la Tirso andando un po' fuori dalla metalmeccanica, ma è evidente che, insomma, siamo quasi in arretramento totale, ecco, sul territorio dal punto di vista industriale. Lei dice la città di Trieste è un po' addormentata, forse affascinata dal turismo, dalle crociere, ma non sono, comunque anche questo è lavoro. Ma sicuramente sì, lavoro, e su questo, insomma, non si vuole puntare il dito, ma è evidente che la qualità del lavoro e dei salari che l'industria riesce ancora a dare sicuramente non è paragonabile alla forte intermittenza e precarietà di lavoro che caratterizza il settore del turismo e della ricezione. Trieste, Anna Vitariani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'inflazione anche a dicembre rimane fredda, con aumenti dei prezzi contenuti sia a Trieste sia a Udine. Secondo uno studio, però, il capoluogo regionale rimane una delle città dove il costo della vita lo scorso anno è aumentato di più. Trieste, secondo l'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori, è la settima città italiana per aumento della spesa media per famiglia nel 2024. Secondo questo studio, che si basa sui dati dell'inflazione diffusi oggi, una famiglia media ha speso nel capoluogo regionale 367 euro in più rispetto al 2023. Pordenone è dodicesima con rincari medi di 342 euro per nucleo e Gorizia è diciassettesima con un costo aggiuntivo nel 2024 di 318 euro per nucleo familiare medio. Udine è al 40° posto della classifica del caro prezzi con aumenti medi nel 2024 di 200 144 euro per famiglia. La città con i maggiori rincari nel corso del 2024 in Italia è Bolzano, dove il costo della vita è cresciuto di 492 euro per nucleo familiare. I dati diffusi oggi dagli uffici statistica dei due comuni parlano comunque di un'inflazione che rimane fredda sia a Trieste sia a Udine. A Trieste a dicembre i prezzi sono aumentati in media dello 0,2% rispetto a novembre, mentre il mese precedente si registrava un leggero calo. In un anno gli aumenti medi sono pari all'1,5% e questo dato è invece in calo rispetto ad un mese fa. A Udine gli aumenti rispetto a novembre sono dello 0,2% e questo dato è stabile. Rispetto ad un anno prima i prezzi risultano in crescita dell'1% e anche questo numero è in diminuzione. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Riprende oggi in corte d'assise a Udine il processo per il delitto di Capodanno imputato a Anderson Vasquez Dipres, il cittadino dominicano che al termine del veglione del 2024 al laghetto Alcione di Udine ha ucciso il suo connazionale Ezechiele Mendoza Gutierrez. L'uomo, reo confesso, dovrà rispondere del reato di omicidio aggravato e, anche se ha sempre sostenuto di non avere mai avuto l'intenzione di uccidere la vittima, rischia l'ergastolo. Alle 11:30 i giudici si sono ritirati per decidere l'ammissibilità delle prove. Si dibatte sull'ammissibilità di un esperimento giudiziale di una consulenza tecnica che riguarda l'esame tossicologico forniti dall'accusa. L'eccezione è stata presentata dagli avvocati difensori di Anderson Vasquez Dipres, il 35enne dominicano che a Capodanno dello scorso anno al laghetto Alcione a Udine ha ucciso Ezechiele Mendoza Gutierrez, 31enne, anche lui dominicano. È la prima udienza in corte d'assise decisa dal GUP del processo presieduto dal giudice Paolo Milocco. Dopo gli interventi di difesa e del PM Elisa Caligaris, oltre che degli avvocati di parte civile, la Corte si è ritirata per decidere sull'ammissibilità delle due prove. La difesa non ha preso parte all'esperimento giudiziale irripetibile e all'esame tossicologico e per questo ne chiede l'inammissibilità. Si tratta di prove che potrebbero portare a stabilire la volontarietà del gesto di Vasquez Dipres, che quindi rischierebbe l'ergastolo. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un'altra vittima della strada, un uomo di 55 anni, Alberto Rigato, è morto in ospedale dopo le gravi ferite riportate in seguito a un'uscita autonoma avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Tarvisio per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Il conducente ha perso il controllo della propria utilitaria che è finita contro uno spartitraffico. La centrale operativa regionale Sores ha inviato sul posto ambulanze ed elisoccorso. L'equipaggio ha portato il ferito all'ospedale di Udine. Poche ore dopo il ricovero però l'uomo non ce l'ha fatta. 55enne, lavorava come manutentore a Tarvisio. I rilievi dei carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Torniamo a parlare del tir che ha causato l'incidente al casello autostradale di San Giorgio di Nogaro. A una settimana dall'incidente sono finiti i lavori di ripristino e alle 9 di questa mattina è stato riaperto l'ingresso allo svincolo. Il casello era rimasto chiuso in entrambe le direzioni della A4 per i gravi danni alle barriere di sicurezza, all'impianto di telepedaggio, ad una sbarra, agli scanner ottici che rilevano i veicoli in transito e ai semafori di ingresso alle porte. Sono 7 le aziende colte in fallo e sospese dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, che nei giorni scorsi ha svolto una serie di controlli a contrasto dello sfruttamento del lavoro. 100.000 euro le sanzioni complessive, spiega una nota del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia. 4 i pubblici esercizi e 2 le aziende agricole multate per gravi violazioni della sicurezza. Un bar anche per lavoro nero. Nel dettaglio, oltre le sospensioni, un ristorante di Udine è stato sanzionato con 11.000 euro per la presenza di 2 lavoratori in nero su 2 impiegati. 9.000 euro a un ristorante di Reana del Royale per la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione. Più di 9.000 euro a un bar a Moimacco per omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Altrettanta sanzione a un bar di Buia per omessa verifica dell'impianto di messa a terra. È di 27.000 euro invece la sanzione a un ristorante di Codroipo dove è stata riscontrata l'omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il meteo, ora il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 7,5 gradi. Soffia vento da est-nord-est, quindi bora a 28 km orari, con raffiche a 73 km orari. A Udine 8,5 gradi, Gorizia e Pordenone 8, Tolmezzo 5,5, Forni di Sopra 5, Piancavallo 2,5, Tarvisio 1,5 gradi, Sappada meno 1, Monte Zoncolan meno 4, Monte Lussari meno 6, Lignano 9,5 gradi. Le previsioni oggi: il cielo in genere sereno o poco nuvoloso, nel tarvisiano maggiore nuvolosità. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora da moderata a sostenuta, soprattutto sul Carso e a Trieste, dove potranno esserci raffiche forti. L'Università di Trieste presenta ai futuri studenti, nell'Open Day iniziato questa mattina alle 9.30, 4 corsi di laurea, dall'architettura alle scienze internazionali e diplomatiche, dall'assistenza sanitaria alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Circa 400 gli studenti della regione, ora gli sgoccioli delle scuole superiori, presenti all'Open Day del Polo Goriziano dell'Università di Trieste, che in mattinata ha presentato la riconferma di alcuni corsi di laurea, tra cui quello di architettura. Devo ancora vedere tutto, siamo proprio all'inizio, non l'ho mai vista da dentro, solo da fuori, quindi mi piacerebbe anche vedere la struttura, mi piace molto la struttura e vorrei vederla completamente, anche i laboratori, sono molto curioso su questo. Anche vedendo com'è il personale qui e la struttura, magari potrò decidere. Mi sto orientando più verso un ambito appunto tecnico, quindi strettamente architettura e ingegneria, però ho ancora delle indecisioni, quindi sto un attimo, mi sto guardando intorno per capire cosa voglio fare. Altri percorsi in presentazione, quello di scienze internazionali e diplomatiche, di assistenze sanitarie e di tecniche della prevenzione nell'ambiente e in luoghi di lavoro, riconducibile a più fattori: la capacità attrattiva del polo, non ultimo la vitalità risvegliata dalle iniziative per la capitale europea della cultura ormai quasi ai nastri di partenza. Spiega il responsabile dell'orientamento dell'Università del Polo Goriziano, Lucio Torelli. Ci sembra di sì, questo insieme anche alle celebrazioni fatte per il centenario, che hanno legato molto la città e le città delle nostre sedi con il territorio, con l'università, e poi anche il fatto di avere una sede che oramai è consolidata negli anni. Altro fiore all'occhiello, le strutture didattiche allestite per completare le lezioni in aula, perfezionando così il percorso formativo. Il rapporto docenti-studenti è molto valido, quindi sono corsi in cui si dà una formazione teorica, ma in cui c'è anche molto spazio per attività di tirocinio, attività pratiche, e i numeri non enormi danno la possibilità di un rapporto reale tra tutor, docenti e studenti. Gorizia, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo la serata di ieri al Teatro di Pasiano di Pordenone, Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, si trova a Prata di Pordenone per un evento dedicato agli studenti delle scuole per far conoscere alle nuove generazioni il messaggio che ci ha lasciato il magistrato ucciso da Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio nel 1992. Sentiamo. Lui era convinto che la lotta alla mafia parte proprio dai giovani, da quel movimento culturale e morale che necessariamente deve coinvolgere le nuove generazioni, perché sono le più adatte, diceva lui, a sentire il fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso, della complicità. Dell'impegno del padre, il giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nell'attentato di Via D'Amelio per diffondere la cultura della legalità a partire dai più giovani, Fiammetta Borsellino ha fatto una missione di vita. La incontriamo al Teatro Pileo di Prata di Pordenone, dove ha portato la sua testimonianza a 250 ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Bruniera. Oggi c'è la consapevolezza che le problematiche che da sempre sono state legate a determinati territori del nostro Stato come il Sud, oggi coinvolgono anche molte regioni del Nord Italia, perché le mafie, come io dico sempre, inseguono i soldi. Molti processi nei confronti dell''ndrangheta e della camorra si stanno proprio svolgendo nelle regioni del Nord. I giovani sono partecipi, esprimono la loro idea di legalità anche con un video preparato per l'occasione. L'iniziativa rientra nel programma di Riflessere Festival della Legalità. Morena Caser è presidente dell'associazione Taracos che organizza l'evento. Ce n'è tantissima di sensibilità, i ragazzi vanno stimolati e hanno le orecchie e il cuore aperto, ed è importante che da parte di noi adulti ci sia un interesse da trasmettere. E loro sono pronti. Prata di Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. La comunità di San Leonardo dice no al progetto della società Ese Cemur per un parco fotovoltaico nella frazione di Cemur su una delle rare aree pianeggianti del territorio comunale posta a lato del torrente Cosizza. Lo ha ribadito il sindaco Antonio Comugnaro intervenendo alla conferenza dei servizi convocata dalla regione per analizzare il progetto, ricordando il voto unanime negativo, maggioranza e opposizione insieme, del Consiglio Comunale. Nel momento in cui le valli del Natisone sono fortemente impegnate nello sviluppo del turismo, visto come l'ultima ancora di salvezza per porre un argine allo spopolamento, ha ricordato con veemenza Comugnaro, realizzare un impianto del genere con il suo forte impatto visivo proprio sulla strada che dà accesso a 4 comuni valligiani è una vera e propria provocazione. La tutela del paesaggio non è però una materia di competenza comunale, il progetto è allocato in un'area a destinazione industriale e artigianale, quindi vocata a progetti del genere. Inoltre, fa sapere il sindaco, i promotori hanno avviato l'iter il giorno prima che il ministro per l'agricoltura Lollobrigida promulgasse il decreto che nel maggio scorso ha posto più severi vincoli al proliferare di impianti fotovoltaici su terreni agricoli. La speranza di San Leonardo è ora tutta riposta nel parere negativo dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, chiamata ad esprimersi sulla sicurezza idrogeologica dell'impianto lambito dal torrente Cosizza. Cambio al vertice dell'IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali. Dopo 20 anni di presidenza, Maurizio Canciani passa il testimone a Marco Pascolini. La nomina è stata ufficializzata durante il Consiglio di Amministrazione lo scorso 7 gennaio. Canciani ha guidato l'Istituto attraverso decenni di trasformazioni economiche, sociali e istituzionali, consolidandone il ruolo come punto di riferimento per la ricerca socio-economica e per la formazione professionale. A raccogliere l'eredità il nuovo presidente Pascolini, economista del lavoro, ex vicepresidente dell'Istituto dal 2012, vanta un'importante esperienza come responsabile di progetti complessi e come ricercatore sui temi delle politiche del lavoro e della formazione professionale regionale. Dalle minacce alle infrastrutture pubbliche, alle insidie nei confronti dei minori, fino alle truffe che ci fanno perdere denaro, la nuova frontiera del crimine viaggia anche sul web, se ne è parlato a Buongiorno Regione. Attacchi informatici alle infrastrutture pubbliche, aziende, istituti di credito e meno di una settimana fa all'autorità di sistema portuale di Trieste-Monfalcone, insidiata dal collettivo Noneim 057 motivato dal sostegno dell'Italia all'Ucraina. La loro è stata un'azione di tipo DOS che satura i server con richieste di accesso, bloccando temporaneamente i servizi online. Da tempo i conflitti bellici si sono spostati anche nel cyberspazio e nella vita di tutti i giorni. Spesso il veicolo può essere anche il computer utilizzato a casa per lo smart working. Giuseppe Panarello, direttore tecnico del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Friuli Venezia Giulia. Si stima che il 65% degli attacchi ha origine mediante la cooperazione involontaria dell'uomo. Quindi se guardiamo il rovescio della medaglia, questo significa che facendo formazione, attuando quelle regole di cyber igiene, noi con un colpo di spugna riusciamo a cancellare il 65% di possibilità che i cybercriminali utilizzino quelle tecniche abbastanza banali anche a volte per introdursi all'interno delle nostre aziende, delle pubbliche amministrazioni, delle associazioni, insomma dovunque utilizziamo uno smartphone. Ransomware è l'attacco informatico più frequente che colpisce le piccole e medie imprese. Organizzazioni criminali particolarmente complesse si introducono nei sistemi delle aziende mediante le mail o i social. Gli attaccanti guadagnano l'accesso all'azienda, alla rete informatica, rubano tutti i dati, li portano via e cominciano ad effettuare delle operazioni di criptazione. A questo si aggiunge il ricatto della pubblicazione dei dati che sono stati rubati e quindi una pressione psicologica doppia che fa sì che la vittima sia indotta a pagare qualche volta anche centinaia di migliaia di euro. Trieste, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport. Pallacanestro di serie A2 dopo la vittoria di ieri dell'Apudine su Cividale. Sentiamo il commento del coach Adriano Vertemati, che punta tutto sull'importanza della difesa, e poi Stefano Pillastrini, allenatore del Cividale. È stata la chiave per 3 quarti su 4, il primo, il terzo e il quarto, perché abbiamo lasciato a Cividale 14, 13 e 12 punti. nel secondo quarto invece ne abbiamo presi 27. È un peccato perché siamo andati sul più 14 e forse inconsciamente, io immagino, dopo il grandissimo sforzo difensivo abbiamo fatto mezzo passo indietro, abbiamo dovuto ricominciare da capo. Poi la partita si è fermata in attacco contro i cambi sistematici di entrambe le squadre e l'hanno vinta i giocatori, perché abbiamo giocatori migliori. Avete soprattutto un Anthony Hickey che è capace di gasarsi e di fare canestri in serie, un giocatore del genere è chiaro che aiuta tantissimo quando si prende questa responsabilità. Chiaro che contro i cambi tu vuoi la palla in mano al tuo migliore attaccante, lui è uno dei migliori attaccanti che abbiamo, se non il migliore, palla in mano. Contro altri tipi di difese invece facciamo dell'altro, devi prendere sempre quello che ti dà la difesa e oggi Tony è stato bravo a fare quello che sa fare. La partita è stata molto condizionata da quell'inizio così brillante di Udine. Io dopo ho tenuto in campo i giocatori che avevano fatto la rimonta, ho usato meno le rotazioni e quindi in fondo siamo arrivati un po' corti. Quindi nel secondo tempo abbiamo faticato in attacco, sbagliando anche i tiri aperti, e di qua invece la difesa ha retto alla grande, solo che poi chi ha fatto dei canestri che obiettivamente erano. Però tenere a 76 punti Udine in casa credo che comunque sia un grande risultato. Avevo potuto fare un po' meglio in attacco e non ci siamo riusciti. Pallavolo, Talmassons ha perso alla Tisana per 3-1 contro Scandicci, seconda squadra in classifica. Una sconfitta prevedibile, almeno sulla carta, condita da una buona dose di rimpianti, perché almeno un punto contro Scandicci poteva essere portato a casa. L'occasione era ghiotta, poiché l'allenatore delle ospiti, Gaspari, ha tenuto a riposo due stelle di prima grandezza, la top scorer del campionato Antropova e il libero Castillo. Il primo set si è sviluppato secondo i migliori auspici, buona ricezione, efficacia degli attacchi in banda, ottima distribuzione della palleggiatrice Ezze. La squadra in maglia fucsia ha effettuato un break mantenendolo senza particolari difficoltà. 25-19 il punteggio. La musica è cambiata nel secondo set, con Scandicci che ha inserito la seconda centrale Graziani. È stata l'altra centrale, Carol, a salire in cattedra, una centrale vecchia maniera, non molti centimetri, ma tanto cervello e capacità di leggere le scelte della palleggiatrice avversaria. 25-19 per le toscane, che hanno pareggiato il conto. Ancora più netta la supremazia della Savino del Bene nel terzo set, durante il quale le ali della CDA Stranzali e Pamio hanno faticato a mettere giù punti. 25-17 è lo specchio del parziale. Solo nel quarto set c'è stato un grande equilibrio, qualche lunghezza di margine a favore di Scandicci, la rimonta della CDA che ha ritrovato la verve offensiva di Stork. Finale di set punto a punto, deciso da un attacco e un muro dell'ala Herbots e da una battuta appunto non irresistibile della palleggiatrice Ognienovic. L'ala Pamio si è regalato una prestazione di ottimo livello per il suo 27esimo compleanno. La cattiva notizia arriva dal campo di Cuneo, dove la Honda Olivero ha fatto bottino pieno contro Novara. La zona salvezza è distante ora 4 lunghezze. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. In regia, per la parte tecnica, Marco Ferritto. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.